Ciao a tutte e ciao a tutti, siamo molto contente di presentare come coordinamenta il laboratorio post vittimista di Nicoletta poi Di Mani, che è venuta qui apposta per noi, la ringraziamo tanto con questo caldo, perché la vittimizzazione delle donne, in particolare quando subiscono violenza maschile, sia dal maschio, sia dalle istituzioni, sia da qualunque altra fonte, è trattata sempre in maniera vittimizzante. Vale a dire, viene presentata la donna sempre come vittima, e questo presuppone due cose molto vantaggiose per lo Stato, cioè impedisce una presa di coscienza, impedisce una risposta in autonomia, impedisce una presa in carico dell'auto-organizzazione, e quindi spinge assolutamente verso la delega, e la vittimizzazione porta con sé anche l'infantilizzazione dei soggetti, per cui vengono convinti che sono incapaci di gestirsi quello che succede loro, incapaci di gestirsi autonomamente, quindi devono ricorrere allo Stato. Questo non è soltanto, è importante, perché non è soltanto un problema che riguarda le donne e la violenza sulle donne. Io faccio sempre un esempio molto semplice, che è quello adesso delle immigrate e degli immigrati, no? Il modo di trattare l'immigrazione è anche questo, gli immigrati e le immigrate, anche questo sempre vittimizzante, infantilizzante, oppure viceversa repressivo. Perché? Perché l'immigrato è buono se muore in mare, e allora tutti spendono una parola, una lacrima, oppure se si impicca all'interno, come in Abruzzo, che è successo tanto tempo fa, all'interno di un CIE, perché la volevano rimpatriare, e allora la violenza la ritorce contro se stessa, si impicca, allora viene detto poverina. Oppure, se è successo anche questo, una migrante si cuce la bocca perché vuole mettere in atto la rappresentazione della sua impossibilità di comunicare, di urlare quello che le succede al mondo, allora le fanno il TSO e la internano in un centro psichiatrico. Però guai se un immigrato o un'immigrata reagisce e in autonomia e auto-organizzazione, o anche soltanto per rabbia, prende delle iniziative personali o collettive e reagisce alla violenza che gli viene rovesciata addosso. Deve sempre delegare, deve sempre chiedere, deve sempre vittimizzarsi. E questo succede anche, diciamo, un po' in tutti gli ambiti, anche nell'ambito dell'antifascismo. Noi, è una cosa che ci riguarda poi da vicino come militanti e militanti, vengono su tutti qua, militanti per fortuna, militanti, perché? Perché se c'è una manifestazione, qualcuno viene picchiato ai margini della manifestazione, allora poverini, articoli sui giornali, basta con la... viene fatta un'altra manifestazione antifascista, democratica. Se qualcuno viene, è oggetto di scherno e di insulti di tipo fascista, allora non si può, il politicamente corretto, sono cose che non si dicono, sono cose che non si fanno. Se però qualcuno reagisce, cioè se in autonomia e auto-organizzazione uno si prende in carico di reagire e di fare l'antifascismo militante, o anche soltanto come la maestra, come Lavinia, di dire effettivamente quello che pensa e quello che vuole in una manifestazione, viene licenziata. Quindi il paradigma vittimario e quello infantilizzante vanno sempre insieme, vengono usati dalle istituzioni e impediscono, e attraverso la spinta alla delega, la spinta alla democraticità, alla convivenza civile, al rapporto sereno fra le parti, spingono a dimenticare che noi invece dobbiamo auto-organizzarci e rispondere in autonomia. Non parliamo poi, adesso passo la parola a Nicoletta, delle donne che agiscono questa presa di coscienza e che rispondono in qualche modo alla violenza che loro subiscono, hanno sempre delle pene molto grandi e una condanna sociale molto forte. Ti passo la parola perché altrimenti la faccio troppo lunga. Grazie Elisabetta per l'introduzione, grazie alla coordinamenta per aver organizzato questo incontro e grazie a voi per essere qui malgrado il caldo, le zanzare eccetera. In fondo io ho viaggiato sul treno con l'aria condita, invernavo, ma va bene. Sì, Elisabetta ha già fatto un quadro chiaro di che cosa intendiamo per vittimizzazione e soprattutto a che cosa dia luogo la vittimizzazione, quindi alla necessità di una delega. Io intanto vorrei specificare che questo termine post-vittimismo non è un termine mio, io l'ho ripreso da Vandana Shiva, da un suo vecchio libro degli anni Ottanta che era Sopravvivere allo sviluppo, poi ripubblicato con il titolo Terra Madre, dove Vandana Shiva parla della prospettiva post-vittimista come approccio che valorizza la gentilità delle donne, dei contadini e dei gruppi tribali, in contrapposizione a quella che invece è l'azione, per esempio, delle ONG o di tutte quelle forme di aiuto che appunto si basano sulla vittimizzazione delle donne del sud del mondo, piuttosto che appunto dei contadini impoveriti dalle multinazionali come la Monsanto, eccetera, per poi andare ad agire e non solo parlare invece loro, ma anche agire invece loro e dettargli l'agenda. Quindi, quando io ho letto questo passaggio di Vandana Shiva, già all'epoca ho avuto questa illuminazione su come fosse sovrapponibile a quello che succede alle donne. Io pratico e trasmetto da molti anni l'autodifesa femminista e quindi vedo come le donne si trasformano anche nell'arco di uno stage, di un fine settimana, nel momento in cui trovano in sé la forza, cioè non si negano più la capacità di reagire, ma trovano degli strumenti che hanno, ma che sono nascosti, che sono in qualche modo occultati, perché appunto la rappresentazione dominante è e rimane quella delle donne deboli. Io ho sempre detto: noi donne non siamo deboli, noi donne siamo indebolite da dei continui processi, da dei continui discorsi che ci rendono oggetti di tutela. E devo dire che questa ultima ondata di femminismo mainstream a me preoccupa molto, questo di non una di meno, perché per chiedere i soldi, i finanziamenti per i centri antiviolenza, sostanzialmente ha aperto tantissimo spazio all'azione dello Stato nella difesa delle donne, quando poi in realtà, se noi andiamo a vedere i dati, vediamo che tra i militari delle operazioni strade sicure, tra poliziotti, carabinieri o comunque guardie carcerarie o comunque persone che per lavoro detengono un'arma, sono i principali attori della violenza maschile contro le donne, anche e soprattutto in ambito domestico o laddove ci sono delle asimmetrie forti, come ad esempio nei CIE o nei centri di raccolta profughi, dove gli ex CIE, insomma, dove il ricatto sessuale nei confronti delle donne detenute è molto forte. E allora ecco, il percorso che faremo insieme questa sera mira proprio a questo, a decostruire questo indebolimento, a capire il processo di indebolimento a cosa sia dovuto, a decostruirlo e a trovare insieme poi delle vie d'uscita, perché io farò una prima parte facendovi vedere una serie di immagini, la seconda parte la faremo, o meglio la farete voi, e inventandovi una campagna antiviolenza che sia post-vittimista, perché come vedremo nelle immagini anche le campagne antiviolenza tendono a ribadire questo concetto di debolezza delle donne. Ci sono delle caratteristiche abbastanza costanti, ve le preannuncio, poi le noterete voi stesse e voi stessi. Le donne, sia negli articoli online dei giornali, quindi diciamo le immagini che vengono utilizzate negli articoli online, sia nelle campagne antiviolenza, sono oggettificate. Il loro corpo è fatto a pezzi, come nella pubblicità, e quindi non c'è mai una donna intera, e già questo è fortemente indebolente. Per sviluppare la fiducia in noi stesse, quello che è importante appunto è decostruire questi processi che ci indeboliscono, che ci rappresentano come deboli, e trovare invece dei modi di rappresentare la forza e la capacità di reagire. Mi ricollego proprio su un fatto molto recente, su quello che diceva prima Elisabetta delle condanne che vengono date alle donne che reagiscono, perché ultimamente c'è stata una apparente svolta, essendo passata la legge sulla legittima difesa. La ragazza di Monterotondo che ha ucciso il padre, tra l'altro non voleva ucciderlo, poi si è disperata, però che ha ucciso il padre nel momento in cui lui stava per strangolare la madre, è stata in qualche modo scarcerata attribuendole un eccesso di legittima difesa, non una legittima difesa, ma un eccesso. Fondamentalmente la stessa cosa che viene attribuita al gioielliere o al tabaccaio che spara a chi cerca di rapinarlo, anche disarmato. Questa ragazza non ha avuto un eccesso di legittima difesa, questa ragazza ha difeso se stessa, sua madre e sua nonna, uccidendo il padre, colpendo il padre. E il fatto che venga utilizzato questo termine eccesso colposo ci deve far preoccupare, comunque fa vedere come ci siano di nuovo due metri e due misure nel caso della legittima difesa. Lo Stato, proprio perché era appena passata quella legge, ha dovuto comunque scarcerarla, ma ci hanno pensato poi gli amici del padre, le 300 persone intervenute al funerale, ad applaudire quest'uomo, a urlare "sei un grande" alla bara dove c'era questo uomo, e addirittura a prendersela col fatto che la figlia non fosse presente al funerale. Quindi quella mentalità dello Stato patriarcale che ci accompagna dall'inizio della modernità in qualche modo ha informato di sé la cultura, e gli effetti appunto si sono visti proprio in quel funerale, in questi applausi, in questo urlare "a quest'uomo sei un grande", quando quest'uomo da 20 anni massacrava la moglie e la madre, la suocera, insomma, anche la zia, esatto, e anche la figlia che appunto si è saputo mangiava chiusa in camera pur di riuscire a proteggersi. Quindi insomma è tanto oioi. Ma spegnilo il forno, guarda, lo riattivi, perché se no non ce la faremo mai. Lo riattivi quando facciamo la parte di laboratorio. Io vi farò vedere delle immagini per tematiche, diciamo. Allora, come vi dicevo, parti del corpo, e vediamo adesso una serie di immagini. Sono immagini che quando leggiamo un articolo sul giornale magari non ci colpiscono, vederle tutte una dopo l'altra ci rendono chiara questa realtà. No, scusate. Partiamo dalla prima. Allora, aspetta. Vado abbastanza velocemente. No, ma aspetta che non c'è. Ah, scusate. Non la dovete vedere qua, piccolina cartolina. No, no, aspetta. Dovrebbe essere acceso un attimo. ha bisogno di un po' di tempo. Passiamo di mano. Immagini di mani. Ora voi considerate che quando noi vogliamo fermare una persona che non conosciamo, che non vogliamo che entri nel nostro spazio vitale, in quello che consideriamo il nostro spazio vitale, tendenzialmente abbiamo un gesto spontaneo che è quello di dire fermo, guardando dritto negli occhi. Ecco, invece vediamo qui come viene rappresentato attraverso le mani proprio la debolezza delle donne, una mano che cerca di fermare ma il viso si volta. Vedete, mani che in qualche modo non fermano, ma non proteggono nemmeno, è un mi nascondo dietro il dito. Questa, tra l'altro, se l'avete notata, è vicino al water, sì. Cioè per terra, in bagno. Questa, per esempio, è una campagna antiviolenza. La violenza sulle donne non è un problema delle donne, la violenza è un problema sociale, però è un'immagine che appunto è di una donna che piange, picchiata, col trucco che le cola, e queste mani che appunto in qualche modo implorano pietà, non sono delle madri, delle mani assertive. Anche questo è un'altra immagine che non è per nulla assertiva, sempre una campagna antiviolenza. Andiamo a vedere adesso un'altra parte del corpo. Questo è sempre, diciamo, nell'ambito della vittimizzazione. Bocca. La bocca può essere una bocca che urla, ma ci sono urla di diverso tipo. Ci può essere un urlo di paura che mostra debolezza e un dire fermo che invece non è un modo di esprimere debolezza. Qui la bocca proprio non c'è più nemmeno. Qui appunto si parlava prima di bocca cucita. Stai zitta, cretina, ed è appunto un'iniziativa da questo gruppo Intervita, presenta Siamo pari, la parola alle donne. Complimenti per la scelta dell'immagine. E anche qui appunto la mano che chiude la bocca. Qui cominciamo ad andare sullo splatter, ci saranno varie cose splatter. Sangue e lividi non possono ovviamente mancare. Questo era alcuni anni fa, in occasione del 25 novembre, l'invito a esporre fuori dalle finestre delle lenzuola insanguinate. Ora, a parte che per chi di noi ha una certa età, queste lenzuola insanguinate esposte ricordano la prova di verginità che c'era un tempo, no? Dopo la prima notte di nozze, a dimostrare che la donna era vergine veniva esposto il lenzuolo insanguinato. Si narra di poveri galli che venivano sgozzati per insanguinare queste lenzuola, ma al di là di questo, come può appunto una campagna antiviolenza che coinvolga la popolazione, quindi esponendo, no, qualcosa al balcone, alla finestra, ecco, parlare di assertività, quando invece parliamo attraverso il sangue. Sangue e lividi, ho sbattuto contro la porta, per dire, una classica scusa che le donne che finiscono nei pronto soccorso dicono anche ai colleghi di lavoro, eccetera, per giustificare i lividi. Nero pesto, qui è anche fashion, perché come vedete è assolutamente una fotomodella, potremmo trovarlo su quei giornali, no? Con quest'aria, questa, vabbè, qui andiamo proprio sullo splatter. Qui di nuovo vedete che c'è sempre questo intreccio tra la pubblicità, lo stile delle pubblicità e lo stile delle campagne antiviolenza. Violenza contro le donne, basta trucchi. Qui questa terrorizzata che guarda attraverso la finestra telefonando probabilmente alla polizia, picchiata. Questa sanguina addirittura anche dagli occhi. Qui una bambina perfino picchiata. Questo tra l'altro venne utilizzato da Forza Nuova proprio qua a Roma nel 2007, questa immagine, dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, quindi il lenzuolo che copre il corpo della donna che è stata uccisa e guarda caso il sangue è proprio in mezzo alle gambe, no? A dire stuprata e uccisa. Non so, Romanda, perché poi mi pare che ne parlammo con Margherita tipo 10 anni fa di questa immagine, ma quella, scusa, quella, questa qui, questa però non nasceva come una cosa, una foto artistica di un video, poi fu usata sia da Forza Nuova sia anche da qualcun altro, sempre qualche, anche nelle campagne antiviolenza, non lo però so se sia nata come un'opera d'arte di vino rovesciato, perché se vedi lì c'è anche il bicchiere originariamente, mi pare, non mi ricordo, poi ne avevamo parlato con Margherita, può essere, sì, ma tanti anni fa. Approfondirò. Che era nata così e poi fu utilizzata, esatto, proprio per questo, perché si vede lì il bicchiere. Sì, è vero, è vero. E invece fu... Poi se volete vi faccio vedere, perché ce l'ho le altre cose, il manifesto anche di Forza Nuova. La Monna Lisa è nata anche lei. Qui questa fu la foto che vinse il premio di, non mi ricordo più che anno, il premio internazionale per la fotografia, la ragazza vittima dell'acido. E anche questo che vuole in qualche modo non rappresentare una donna, però rappresenta comunque la violenza. Questo ancora siamo nel fashion, vedete la bella modella e poi massacrata, la bella bimba e poi massacrata. In un paese cattolico come il nostro non possono mancare le rappresentazioni con la crocefissione. Questo è del 2008, chi paga per i peccati dell'uomo, un'altra campagna antiviolenza, la donna crocefissa. Questo addirittura nel mondo virtuale, Second Life, anche qui Second Life aveva aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la violenza maschile sulle donne, e voilà, ecco qui la donna crocefissa. E questa è una foto di un fotografo, mi pare, ecco, Eric Ravelo, contro il turismo sessuale, ha fatto una serie di fotografie con crocefissioni di bambine crocefisse al proprio aguzzino. C'era anche la bimba palestinese crocefissa al soldato israeliano, tra l'altro immaginando, cioè utilizzando un immaginario cattolico per parlare della palestinese. Comunque, ecco, qui parla del turismo sessuale. La solitudine, poi si sbizzarriscono. La donna è sempre da sola, o quelle poche volte che non è rappresentata da sola in queste situazioni di semibuio, eccetera, è con altre donne in una situazione di non comunicazione. Quindi non c'è il suggerimento, in questo senso vittimizzante, a alleati con le altre donne, insieme potete farcela, ma invece è fai i conti con la tua solitudine. E sono immagini di solitudine angoscianti. Questo è incredibile. Allora, questa fotografia parla di un centro dove gli uomini violenti, maltrattanti, in qualche modo fanno dei percorsi per uscire da questa loro violenza agita. Fate vedere degli uomini maltrattanti? No, comunque fanno vedere la donna. Notate che l'uomo non si vede mai. E qui appunto, quando la donna non è sola, le altre donne sono comunque non vedo, non sento, non parlo. Quindi vedete che, cioè, qui siamo... la Presidenza del Consiglio dei Ministri, qui siamo all'Organizzazione Mondiale della Salute, della Sanità, Questo addirittura era stato fatto un concorso tra le studenti delle superiori e questa è stata la foto che ha vinto, appunto, con la scritta fragile. Quindi questo per dire è interessante perché era comunque una ragazza adolescente che è riuscita ad esprimere in questo modo la violenza maschile contro le donne, quindi fa capire il condizionamento che ha avuto appunto da questi bombardamenti di immagini. Vediamo l'uomo. L'uomo, come vi dicevo, non si vede mai, è un po' l'ombra sempre, il babau. È proprio il babau che fa paura da bambini. Eccolo qui riflesso negli occhi della donna. Qui lo si intravede con il pugno pronto, si vede la mano, ma non si vede mai veramente l'attore della violenza. Qui abbiamo addirittura la cinghia, prima eravamo nel bagno, adesso siamo in cucina. Vedete che non è mai possibile vederlo in viso. Cioè, sembra Topolino. Se non fossero così tragiche, sarebbe lo stile di Topolino, no? La mano nera che... Questo da film di Dario Argento. Questo, allora, questo è un articolo, lo leggete, il titolo Violenza sulle donne, interventi per le pari opportunità. Guardate l'immagine. Le pari opportunità sono quelle di essere presa ad accettate, a parte l'assurdità di questa cosa, cioè sono molti di più gli uomini che sparano o accoltellano che non quelli che uccidono ad accettate. Ma va bene, questo era in Friuli Venezia Giulia, quindi ci sono anche tanti boschi, le montagne, per cui l'accetta viene utilizzata, però è veramente assurda questa immagine. Anche questa, articolo del Resto del Carlino, la manager incastra il maniaco del bus, però ti fa vedere invece non lei che lo appiccica alla porta dell'autobus, ma invece di nuovo lei che cerca, non riuscendoci, di togliere la mano che le tocca la coscia. Lo stalking, qui nello stalking anche qui l'uomo non si vede, nel senso che quando si vede è uno sempre incappucciato, un po' black block, no? Come se il violento fosse il black block e non il marito che tutti i giorni ti ritrovi a casa. E allora ecco, anche qui è un po' il babau, vedete? Queste donne che vengono spiate, vengono seguite... o hanno paura di essere assediate. La cosa interessante è che quando non c'è niente dell'immagine maschile è come se diventassimo noi lo stalker nelle fotografie. Qui l'uomo che spia. Qui in qualche modo, per fortuna, lei fa quello che si dovrebbe fare quando ci si sente seguite, cioè voltarsi e guardare chi sia. Però vedete comunque con un'aria spaventata. Ti sto guardando. E qui vedete, ecco, questa per esempio è un'immagine dove siamo noi lo stalker. È come se fosse la nostra immagine con... il telefonino, la nostra mano con il telefonino, questa come se fosse la nostra ombra proiettata che insegue la donna. Anche qui vedete, è terrificante questo meccanismo di identificazione in cui veniamo coinvolte. Nella pubblicità, questa è la rivista 12 che aveva fatto una serie di immagini, appunto, vittima della bellezza. sempre con l'idea di supportare le azioni contro la violenza maschile sulle donne. Questa addirittura la gola tagliata, questa vabbè è famosa questa pubblicità di Dolce & Gabbana, addirittura quando si parla di lavastoviglie, perché la Miele è una marca di lavatrice lavastoviglie, stoppa la violenza sulle stoviglie, cioè il bicchiere rotto. Allora, vediamo degli esempi di delittimizzazione dopo tutte queste, perché dobbiamo tirare un respiro. Allora, questo appunto abbiamo visto è vittimista, l'immagine l'abbiamo vista come prima immagine, la ritroviamo qui che ci dice stop, fermiamo la violenza sulle donne. Come vi ho detto, non funziona se non si guarda dritto negli occhi, anche qui. C'è un messaggio scritto, ma lei non guarda, anche qui, vedete tra l'altro gli stereotipi, eh? Guardate la potenza di questa immagine, lei che guarda dritto, la faccia seria è centratissima in se stessa e ferma, stoppa. Questo infatti è un'immagine che ho usato per uno dei miei corsi di autodifesa, tra l'altro, perché la trovo veramente bellissima. Questa anche molto bella, è fatta da una fotografa brasiliana, Isabel Lima si chiama. È molto bella su, contro la violenza sulle bambine. E guardate anche la bimba come guarda dritto negli occhi. Qui vabbè, sempre Isabel Lima, un uomo e una donna contro la violenza. Anche qui questa donna ha sì le scritte, ma guarda anche in faccia l'aggressore. Questo io lo trovo molto carino. E perlomeno rappresenta un uomo, tra l'altro, finalmente. È il primo. Questo sostanzialmente dice, insomma, rimettiti il cervello al suo posto, perché se ragioni col cazzo non uscirai mai. Questo anche, devo dire, questa è una campagna, ahimè, fatta dalla CGIL, se non sbaglio, però io l'ho trovata carina, però anche qui appunto il volto dell'uomo è coperto, però è coperto con una ragione, la violenza ha mille volti, impara a riconoscerli, quindi ha un senso quella scritta, cioè lui è coperto dal fatto che può non essere questa faccia, può essere la faccia del tuo fidanzato e appunto impara a riconoscerlo. Anche questo è solo modo per cambiare un fidanzato violento, cambiare fidanzato. Sapete, molte donne che invece si sentono le salvatrici, no? Io lo cambierò, io ti salverò. Donne che si mettono con uomini che sono stati violenti con altre donne, dicendo sì, ma l'ha fatto a lei, a me non lo farebbe mai, e poi si ritrovano invischiate nel circolo della violenza e si auto, tra l'altro, accusano, no? Si colpevolizzano anche, perché oltre alla vittimizzazione c'è anche un meccanismo di colpevolizzazione, cioè forse ho detto una parola in più, forse sono uscita una sera in più, eccetera. Questa è una campagna fatta in Sud Tirolo, la mia forza nel rispetto è quando lei dice no, io dico ok. La mia forza è nel rispetto, quando io voglio e lei dice no, non lo facciamo. Cioè sono due frasi molto semplici dove fanno vedere delle relazioni tra ragazzi giovani che possono essere delle relazioni di amore e di rispetto. Anche questo perlomeno vediamo madre e figlia che se ne vanno, e questa vabbè è una famosa foto del corteo, se non sbaglio, del 2007. Qui anche per esempio vedere queste ragazze sorridenti che dicono rompiamo il silenzio è importante, soprattutto perché sono ragazze africane, e sulle donne africane con la questione delle mutilazioni genitali è stata fatta una vittimizzazione incredibile, lasciando molto spazio alle ONG che pensavano di andare a civilizzare i selvaggioni africani, e disconoscendo invece completamente il grossissimo lavoro che le donne africane, non solo le femministe africane, ma tante donne africane stanno facendo nei paesi in cui si praticano le mutilazioni genitali per fermare questo fenomeno. E la prima cosa che fanno per fermare il fenomeno è trovare un altro lavoro alle donne che praticano le mutilazioni genitali sulle bambine, perché voi lo sapete che le mutilazioni genitali sono praticate da donne che sono anche levatrici, quindi sono anche ostetriche, sono quelle che aiutano nei villaggi a far partorire le donne, sono donne generalmente anziane, e quindi la prima cosa è trovargli un'altra fonte di reddito per fermare questo. Un'altra cosa che le donne in Africa fanno, nei paesi diciamo dove si praticano le mutilazioni genitali, che non sono legate assolutamente a nessuna religione, cioè ci sono in paesi cristiani, in paesi musulmani, anche in gruppi animisti, è quello di andare a parlare con i capi villaggio perché in qualche modo diano uno stop a queste cose, andare a parlare con le nonne, perché non sono tanto le madri quanto le nonne che per tradizione portano avanti questa questione delle mutilazioni genitali. Anche questo è un messaggio molto chiaro, netto. Questo, vabbè, è il bel manifesto del novembre del 2007, del corteo che ci fu qua a Roma, proprio dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, quando Forza Nuova utilizzò quell'immagine in chiave anti-Rom. Anche questa è una donna bella incazzata che urla basta, e quindi vedete, noi eravamo partite da questa, come in realtà ci siano ben altri modi per esprimere la devittimizzazione. E poi le resistenze, e questa è quella che io faccio vedere, mi piace molto, è il manifesto per la visibilità delle mestruazioni. Voi sapete che sulle mestruazioni c'è un interdetto che viene dalla Bibbia in poi praticamente, e queste donne, queste sono un gruppo di femministe, di giovani femministe spagnole, che per rompere con questo interdetto mestruale sono andate in giro appunto con i fusò bianchi macchiati di sangue, ma questo è un macchiare di sangue per mandare un altro messaggio, e davano questo volantino che adesso vi ingrandisco. Ups. Per quelli che ci hanno addottrinato all'usa e getta, per tutti quelli che speravano che rifiutassimo indefinitivamente il nostro proprio corpo, questo è il succo delle nostre viscere dalle quali non scappo, una macchia senza limiti, un rispremere che non potete fermare. Il mio corpo si disperde, il mio pensiero anche. Con queste mutande macchiate di sangue come bandiera contro la dottrina del potere, contro le strutture stabilite, vi faccio sapere che nel mio corpo decido io, e così ogni mese mi libero dell'endometrio riaffermandomi nella mia decisione di controllare la capacità di riproduzione del mio corpo. Nella mia carne comando io, che è un messaggio ben diverso da difendiamo la 194, peraltro, legge indifendibile. Ci riusciste a suo tempo, però ormai non mi vergogno più di macchiarmi, e incluso decido volontariamente di farlo esibendolo pubblicamente. Vediamo se riesco a farlo scorrere. Sì. Mi macchio e non mi fa schifo, mi macchio e non mi faccio schifo. Non rifiuto il mio corpo, questa è la mia natura. E neanche sono malata quando ho le mestruazioni, non sto male. Esattamente al contrario, mi riciclo in ogni periodo. Non è una maledizione né un castigo divino, è un'attività ormonale. Siamo stufe dei pregiudizi mestruali e dell'invisibilità. Visibilizzare le mestruazioni per visibilizzare il corpo come spazio politico. Questo è un passaggio molto importante. Pensate alle pubblicità degli assorbenti dove versano liquidi verdi, blu, eccetera, mai che vagamente abbiano il colore del sangue. Ci siamo stufate di chiedere assorbenti tra sussurri e sguardi complici. Con questo manifesto metto un punto finale alla tirannia in cui mi avete educato. Non ci sarà più permissività da parte mia, le mestruazioni sono mie. E queste appunto sono le ragazze del gruppo che vanno in giro dando questi volantini macchiati di sangue. E io questa, ecco, l'ho trovata una bella campagna per rovesciare appunto questo uso del sangue che vedevamo prima. Scusate, vuoi scappare? Grazie. Ok, ciao, ciao, ciao. Grazie mille, buon proseguimento. Grazie. Ecco, allora, io mi fermerei qua, perché direi che di materiale ce n'è. Sono andata velocemente, ma perché secondo me ha senso proprio farli in come a fotogrammi, no? Il film, questo film dell'orrore di questa ridondanza e questa ricorrenza di queste immagini. Se voi avete voglia, io vi proporrei di fare, sì, sì, di provare, sì, sì, a lavorare insieme. In un quarto d'ora, oh, magari grazie. 20 minuti, provate a pensare una campagna antiviolenza post-vittimista. La cosa che vi chiedo, perché di solito è una scorciatoia, quindi evitatelo, evitate l'uso di armi. Cioè, non le, perché sennò mi troppo facile con la pistola in mano, ma siccome non giriamo con la pistola in tasca, però abbiamo il nostro corpo, abbiamo la nostra volontà, la nostra assertività e armi anche che possono essere la borsa piuttosto che cose che abbiamo intorno, delle sedie eccetera, insomma la pistola diventa una scorciatoia e io mi sento debole nel momento in cui poi la pistola non ce l'ho e quindi ricado di nuovo in un processo di indebolimento, per cui ecco vi chiederei di evitare questo e di provare a pensarla. Scegliete anche il tema, può essere appunto la violenza maschile contro le donne, ma può essere anche il turismo sessuale, come certo, abbiamo visto, però ecco, che abbia sempre a che fare con forme di violenza, quella che voi ritenete essere delle forme di violenza maschile contro le donne, perché appunto la violenza maschile, la violenza patriarcale si esprime in forme molteplici. Certo. Conto sulle due giovani fanciulle che voi conosco già e poi ce lo illustrerete. Sì. Io volevo dire una cosa al volo sulla, quando hai parlato delle donne africane, no? Mi ricordo che in Francia c'è stata una campagna qualche anno fa molto forte contro le mutilazioni genitali femminili, un coinvolgimento qua e là, manifestazioni, proclami, cioè. Però la Francia si dimentica che nel Burkina Faso, che è una degli stati, chiamiamoli così, delle zone in cui vengono messe in atto le mutilazioni genitali femminili, per esempio quando c'era stato il governo rivoluzionario con Thomas Sankara, avevano iniziato una operazione di sensibilizzazione in questo senso, erano state fatte non mi ricordo più quante ministre donne che facevano lavoro di questo tipo. Chiaramente la Francia ha fatto il colpo di Stato, ha ammazzato Sankara, dopodiché anni dopo si prende la briga e la faccia tosta di fare la campagna contro le mutilazioni femminili in Burkina Faso. Cioè questo è la chiusura del cerchio. Insomma, certo, ecco. Ma quello è suprematismo poi, no? Ma così come per esempio quando parlano ad esempio dell'Uganda o di paesi dove ci sono leggi contro l'omosessualità, quelli erano paesi che prima della colonizzazione non avevano assolutamente problemi sull'omosessualità, sono stati gli europei quando sono andati a colonizzare che hanno portato le loro leggi contro l'omosessualità, ma prima ancora i loro missionari che hanno parlato contro l'omosessualità come peccato, come male, come sporco, come orrore. E quindi poi oggi dire come sono arretrati quei paesi senza riconoscere l'eredità coloniale di quelle leggi è una cosa gravissima, non se ne parla mai. Io avevo un'amica dello Zambia, per esempio, lei veniva da un gruppo etnico matrilineare, cioè dove l'eredità passa di madre in figlia e quindi in linea femminile, e lei diceva quando sono arrivati da noi i missionari ci hanno imposto la patrilinearità dell'eredità, quindi la linea maschile dell'eredità, ma per tradizione noi eravamo matrilineari e quindi stava cercando insieme ad altre, lei era una femminista dello Zambia, di ristabilire questa antica cosa. Per cui, insomma, certo, facciamo sempre attenzione, no? Perché questa idea dell'Europa, dell'Occidente avanzato, illuminato, che va ad emancipare gli altri paesi, spesso nasconde delle grandi ipocrisie e anche delle grandi insidie, perché poi diventa come la guerra in Afghanistan, andiamo a liberare le donne dal burqa perché il burqa è un simbolo di oppressione, quindi bombardiamo tutti per liberare le donne dal burqa, e anche no. Sì, anzi, non solo, ma prima, quando non c'era il burqa in Afghanistan, ma c'era un governo comunista, c'erano appunto anche lì 7 donne ministre, mi pare, e ci sono delle foto bellissime della hanno fatto sulle donne in Afghanistan. Allora, bene, passiamo la mano. Aspetta, volevo farvi vedere. Eccolo. Ecco. No, è un altro. Questo è quello che era stato utilizzato. Sì. Sì. Bene. Va bene, vi lascio lavorare, mi fumo una sigaretta. Parodia di Montmaché, se manca ma tu savura. E svida sa piosta vive, parodia di Montmaché, se manca ma tu savura. Angola, angola, e forza, la minha scatta manca, un ben cuore per magna in cammino. Angola, angola, e forza, la minha scatta manca, me guarda pra manhã caminho. Esconvivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Esconvivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, angola, e força, caminhos catamata, me guarda pra manhã caminho. Angola, angola, e força, pra mim aos catamata, um bem cuora pra banha caminho. Paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, angola, e força, a minha oscata mata, um bem com hora para banhar caminho. Angola, angola, e força, a minha oscata mata, um bem com hora para banhar caminho. Angola, angola, e força, a minha oscata mata, um bem com hora para amanhã caminho. Angola, angola, e scatamata, mi cuore fa magnata.